sta dicendo male, tutto alternato. Non ti capisco. Giulio Werner. Allora, l'uomo dei 7 mari, così la chiamava Ischio. Ischio di Trumia, qui dentro dove sono dei cibi, pigliava tutte le scogliere in pieno. Peggio tu la ziracca di Gamboni che... molto peggio, molto peggio. Giulio Werner era micidiale. Il Rattapegnale è peggio. Allora, sono le 6:30 quasi. Le 6:22 per la precisione. Cazzo. E chi ci manco baricatore, no? Vuol dire pigliato a sonno brutto. Allora il piacere non sta dormendo, sta facendo qualcosa al computer. Non è neanche in PMR perché è tutto acceso qua. Non so, vabbè, sono riuscito a prendere due cosette. In domenica. Ah, è vero che è tutto già arrivato domenica sera, così è. Allora mi sei andato alla fidanzata a consolarla che c'è freddo oggi. Avvero. Attento, Ratta Pignara. Chi si rata che beh, non avevo manco sport, nulla, ma mi piace un gran premio, così la mano sul fietta. Ma calcio non ce n'è, c'era la nazionale della Ziracca di Camboni che ha giocato. Io anche quello mi guardavo e non ha già mai dato. Quindi sono cominciato a danzare io pure. Penso di zinco. Anch'io sono i 5, trovo Filippo lì sotto, è giunto in paramesso del 2018, vediamo lì. Mia moglie è nessa Roma, dove io attendevo la televisione, è nuda me, eravamo già in 30. Oh, pipistrello notturno, ma la gente che si... Non respirano. No, no, non respira proprio. Questo Ratta Pignara non respira. C'è una cantata che tenda. Ah, che tenda. Allora, volete se è ingrediente della che tenda in casa. Ah, è giusto. Allora, non lo dice ai movissimi. L'aveva portato la drappola alla mamma. Allora, ha scherzato per la zinzola, si è appiccato. Che è? No, abbassa. Sì, adesso va bene. Vabbè, ma se tu non ti alzi alle 5 del mattino, come lui, come fai a parlare con gli astronauti? Vabbè, ma non c'è bisogno di alzare alle 5 del mattino. Se vuoi parlare con gli astronauti, aspetta che entra Ratta Pignara e ti facciamo parlare con lui. Non ha niente a che fare questa radio con l'altra, capito? L'altra è molto, molto più forte del radio. Che Giuseppe è interessato. Che ha detto Giuseppe? No, no, l'ho portato via il C80 io perché non riuscivo ad usarlo, usavo le 4:40. Mio Giuseppe non è un ragazzino, ma... c'ho 89 anni, mi... 7.007, buono, a 600 euro è buono, è buono. Se lo vuoi prendere, prendilo, qui a Natale ma vai a me. E allora passiamo a Natale domande, ma Muros, capito, ci proviamo i freni in farada, se non frena puliamo la saltizia in terra. Davvero? Sì, 7.007 è interessante, il prezzo è interessante, se lo sta vendendo, adesso no, questo mese c'è un sacco di spese, niente, il prossimo mese c'è anche l'assicurazione, cazzo si chiama, la revisione della 600, il prossimo mese, diglielo, te lo fai mandare, me ne mandiamo i soldi. Maria, abbaccia la radio, tu sei tutto trappato. Sì, sì, sì, va bene, va bene. È un buon prezzo quello. No, no, adesso no, potrei anche farlo adesso, ma no, non mi fido, non so mai che ci siano altre spese qua. Non gli ha dato bene una, un chitto condominio. Vabbè. Ciao Vanni, buonasera. No, non so più vendere nulla io. Io non so più vendere nulla, anzi. Compro, compro, non vendo, compro. No, c'era un radio in coso, in continente, però ma adesso me non mi interessa. Agli altri cosi a Bissà. Natali lo senti, sì, tu già lo senti, a Vannino riprendi. Sì, già lo sento. Ciao Vanni, se mi ascolti. Ma a quelli gemellini, uno ce l'ho già, l'altro mi serve quell'altro, ma è Vanni. E i soldi per andare in banca a pigliarli, cosa li faccio? Per andare in banca, apri un garage, ribiglio, e un po' anche troppo se la passi appena appena un pelino è molto più chiara. No, non tocca più nulla, però non sta mano a prendere, lascia la uscì, che sono col baracchino, ti ascolto magnificamente bene. Ti vabbè, Ivani, ci aggiorniamo al telefono, dai. Poi l'altro, c'è uno che lo stava cercando, voleva il mio, al limite diriamo anche l'altro. Capito? Già ci sentiamo al telefono. Avanti Capri, lo senti a Vannino di Sosso? Ehi, ti ho detto, va bene, già ne parliamo al telefono di persona, intanto devo scendere a Sosso. Uno questi giorni che devo portare il badge, capito? In ufficio lì al depuratore. Quindi aspetta adesso, dopo le ferie, dopo la prossima settimana, magari ti telefono se sei in zona, ci vediamo. Gappa gappa, avanti Natalino. Natalino! Io sto usando il Superstar con la BPC. Uia! Via, tamponato, riprendi, cambio! A Vannino io lo sento male oggi. Sicuramente. No, io già ti sento bene, non c'è problema. Basta un po' più nuda, già si rende bene. Ok, avanti, Peppino di Capri. Ma quelle originali, quelle grandi rotonde. Ehi, quelle grigie, già ho capito quali sono. Già vanno un anno sui buffi. Attacca del jack mono però, mono. Capito, jack mono ci va lì. Adesso mi ricordo se è quello grande o quello piccolo. Vabbè, quello grande comunque dovrebbe essere. Ok, avanti Vanni. Io non ho capito cosa ha detto, non ci credi. Abbassare un altro pelino, Vanni. Molla tutto così. Eia, ma adesso almeno ti capisco. Poco fa è come ieri fuori frequenza. Ti ascoltavo. Un secondo che arrivo subito, riprendi i capri. Breco, un attimo il break registrato. Ehi, cosa vuoi? Sei alto poco qua. Beh, è già troppo alto, figurati. Aspetta. Mi ascolti così? No, che disturbo, se aumento disturbo. Sto scendo con meno di 5 razzi perché sennò disturbo. Avanti il break. Buonasera a tutti, Roberto da questa parte. Ciao Natalino, dopo tanto ti sento. Ciao Gianni, ho sentito di sfuggita Claudio e poi l'altro, non ho capito chi è l'altro amico. La vorrei salutare se si presenta. Vai Vanni, ma Vannino non risponde. Vannino di Sorso era. Ciao Roberto, ben sentito, buonasera. E siamo sempre qui sul 10 noi. Non era tanto che non entravo, mi qualche volta è capitato di ascoltare, ma pochi minuti perché non avevo mai tempo. Oggi non sono uscito, sono rimasto a casa perché sono mezzo pizzicato dal raffreddore da ieri e ho detto che mi rimango a casa. Comunque ben sentiti tutti dopo tanto, dai. Avanti Gianni. Sì, quasi 9:20, la radio è buona, che apparato stai utilizzando? Vai benissimo, ti ascolto perfettamente. Natalino, tu invece cosa c'hai? Un baracchinetto questo, non ne ho più di quella roba. 9:25, il tuo segnale, la radio è buona, non è male, fortissima, ma è più che buona. Che antenna c'è Natali? È una 5 ottavi, ma disturbo e quindi non posso salire né niente di potenza, sto facendo con 4 watt scarsi. No, il segnale è buono, tu sei giù, zona bassa, dai, diciamo, non diciamo in particolare, zona diciamo vicino al ponte, dai. Allora stai arrivando alla grande, considerando che sei in un fosso, direi sei 9:20 qua, abbondante, con picchi di 9:25. Chi è l'altro amico Vannino? Avanti, se c'è ancora. Ok, il tuo segnale è 9, quasi 9, dai, è poco meno di 9, la modulazione è abbastanza buona, sento un po' cupa come modulazione, comunque è comprensibile. Sì, ho capito. Non c'è bisogno di aggiungere altro, dai, ho capito. Ok. Mi hanno dato un controllo di segnale, com'è il mio segnale dalle tue parti? Ok, vabbè, io riesco a riceverti un pochettino più alto come segnale, non so se abbiamo lo stesso tipo di antenna, comunque sei quasi 9 tu segnale. Tu che antenna stai utilizzando? Con 100 watt stai andando. Sì, sei salito 9 abbondanti adesso. Ok. No, io sono tranquillo, niente di spinto, sono una decina di watt in antenna, 10-15 watt, non di più. Mia Roberto, noi. Mia Claudia, e tu? Fatti sentire, ma sei più basso del normale, Claudio. Beh, ogni tanto bisogna mangiare anche i baracchini a farli girare. Ciao, buonasera, ben sentito. Sì, è una radio, una bomba, il segnale è 9P50, no? È come che sei a fianco a casa. Vabbè, siamo attaccati. La radio è buona comunque. È un superstar 3008 con l'MB+5, dai, niente di che. Un baracchino così giusto per farlo andare. Riprende e fai girare, tutto bene, sì? Sì, diciamo relativamente, sono rimasto a casa, gioco da 3 giorni e mezzo raffreddato. Ieri sono uscito perché dovevo fare cosa. Stamattina sono andato a pranzo da mia sorella, ma era meglio rimanere a casa, sono ancora un po' raffreddato. Mi rimango qua in casa perché domani se no viene male a lavorare. Vabbè, adesso non è ora più, cioè non è più tempo di stare in giro, dai, ma non che lo trovi qualche domenica bella, ma già l'hai visto, la temperatura è calata tantissimo e poi c'è freddo. Quindi come te che la mattina devi aprire il lavoro, bisogna starsene un po' in cucetta, no? Io non sono andato da nessuna parte, mi sono uscito stamattina una mattina a prendere un caffè e poi ci siamo rientrati a casa, tutto qua. Avanti Capri, mi ha Roberto Capri, mi. Troppo scaldano quelle tuffe lì, dopo ci furi al freddo e ti crepa. No, io sono contrario al caldo troppo forte in casa, assolutamente. Meglio tapparti un po' di più e avere un clima un po' più, meno differenza, dai, rispetto all'esterno. E beh, non c'è nessuno. E io già ci sono. Ho detto la mia. Claudio c'ha il K2. No, io già me. Cazzo 28. Basta mettere un termostato, cioè ti regoli la temperatura, quando arriva quella temperatura stacca. No, io già in macchina non lo sopporto l'aria calda, sto male. Se entro a città mercato muoio, perché me ne vado fuori, non riesco a entrarci. Figurati a 28 gradi a casa tua prendere un coso, tipo sauna. E a quella temperatura si cata, qua c'è 23. Quindi ci avete tipo forno a microonde. Comunque avete parlato in due, Natalino e coso, come si chiama? E Gianni, vi siete quasi sovramodulati. Io ho detto che ho 23 gradi qua e sta bene. Sono anche troppi 23 gradi. Ne ho, io riscaldamento acceso ne ho 20,6-7, sta benissimo. Sono in magliettina, ovviamente caldo. Sono troppi. Cazzo, 28 gradi, io oggi non lavoro. E su, 28 gradi sono troppi già. Con la temperatura che c'è fuori adesso, in questo momento, dentro si sta bene anche a 20 gradi, 19-20 gradi. Cosa vuoi mettere a 28 gradi? 28 gradi si può andare a mare, troppo. Vabbè, lì chiamo il tecnico e te la fai sistemare, però fatela tarare bene perché è troppo così, capito? Vannino c'è ancora? Sì, Vannino di Sorso, fai, va bene. Ho detto vabbè, stamattina sono sceso a prendere il caffè con Natalino a San Giovanni, poi salendo della 600 ho frenato e si è sentito tum sul lato sinistro, si deve essere o si è staccata la pinza, non lo so, perché poi si sente raschiare. Domani mattina all'apertura mi avvicino e la faccio vedere a Danilo. Ehi, a fargli un brinco, ma non lavori domani per te. Vabbè, tu non stai entrando, io sono arrivato. Sei in pensione? Yes. Vabbè, che tu con Antonio non ti stai vedendo più, col mio dirigente. Sì. Sto finendo le ferie e termino il 20 di novembre. Poi dovevo rientrare 8 giorni, ok, però Antonio mi ha detto che ho del roll da recuperare, quindi ora è al recupero, capito, per permessi retributivi, quindi me li faccio e basta. E abbiamo chiuso. Sono contento, tanti auguri, cacchio. Adesso c'è tempo libero, cacchio. Mi raccomando, non te ne andare a rivendiuri, come si dice. No, ce n'è rivendiuri, sono sempre a casa, Roberto. Sono sempre a casa, dando una mano un po' qua, capito? Dando una mano un po' a mia moglie. Però adesso così mi faccio dare quella roba, quella busta, ti ricordi di quelle pompette che servono per Danilo, così me ne sto lì e inizio a a sistemarle, le cui sono già pronte. Le faccio vedere questa pinza, allora, perché ho paura di frenare, fa pum, e poi praticamente mi frena la ruota sinistra, ma la rallenta, capito, ma la frena un po', è successo qualcosa, o si è staccata la pinza, o si è rotta la molla, non lo so. Faccio vedere a lui domani mattina, mi avvicino, intanto tu alle 8 sei già lì, così non rompiamo le scatole nel frattempo. Andiamo a prendere un caffè. Lega, non ti preoccupare, stai attento, non ti allontana a Parigi, ossia che te ne sia saltata qualche pastiglia o qualcosa. Ciao Vanni, tante cosce belle, ci aggiorniamo telefonicamente. Ah, perché? Può essere anche la pastiglia che hai consumata e adesso si è saltata la molla. Tutto può essere, già. Bisogna verificare che si è puntato un pistoncino magari, e tante cose possono essere, non lo so, bisogna vedere, dai, comunque non ci rischiare assolutamente, vieni, avvicinati, comunque ciao Vannino, ho ben sentito, dai, e buon tutto, passo agli altri per i saluti, Natalino e poi Capri. Ciao Vanni, alle prossime, avanti Capri 2. E poi è pericoloso perché se si punta la pastiglia camminando, infatti, perché volevo avere Massimiliano domani mattina, ma alle punti è troppo lontano. Invece con Roberto siamo vicini, piano piano, capito? E niente, mi avvicino lì, perché se sono da prendere le pastiglie, va bene, ma le aveva controllate da Nilo, erano buone. No, ma secondo me si è staccata qualche pizza o la molletta, qualcosa è saltata, non so, va bene, domani mattina mi avvicino e me la faccio controllare da Danino, riprendi o Roberto? Stai attento, mi raccomando che con i freni non c'è da scherzare. Stavo dicendo altro, cos'è che mi hai detto, un 3008 Superstar stai usando qua? Sì, Superstar di Massimiliano questo. Ho fatto stamattina lo giallo, siccome c'è l'attacco del mio, allora gli ho messo l'MB più 5, cioè il tone a 5 e la tonalità a 5, abbiamo regolato stamattina, e per fare due chiacchiere già va bene, c'è una ola, 10 watt abbondanti. No, no, già spingere parecchio, già si fa sentire, dai. E proprio sempre col capo. Tanto siamo arrivati i 4 iati, i baracchini, c'è anche la 48 che esce molto bene, lo stesso c'è 8 watt, giusto per fare due chiacchiere, a farli andare, capito? Gappa, va bene, domani mattina, ma faccio ci sento, non c'è bisogno manco di dirglielo a Danilo, ci arriva prima di me, che appunto mi avvicino, che devo venire io per questa cosa, così di aspettarmi che andiamo a fare il caffè assieme. E io. Capri, tu cosa stai uscendo con 44, che antenna c'hai? No, qua stai arrivando quasi 9 più 20, 6 9 più 15 il tuo segnale, non so quanti cavalli vapore li stai dando, comunque 6 9 più 15, K. Io come ti sto arrivando? No, saranno una ventina, saranno più o meno questi. Modulati forse qualcuno di più. E io. Ma vabbè, noi io e Claudio già siamo aperti per Alghero, ma io sono un po' scoperto verso il mare, verso la zona di Sorso, quelle zone lì, Sennori, vari, un po', il segnale mio è un po' coperto, perché c'è il monte davanti, però per Alghero arriviamo a bomba. Vabbè, Claudio ancora di più, ma almeno io arrivo benissimo ad Alghero. Ehi, già lo vedi, no, è che non c'è più nessuno. Qualcuno sul 20 e basta, sul 20, sul 23 stanno spostando, ma solite persone che fanno appunto due chiacchiere fra di loro, giustamente. Ma qua sul 10 un po' più trafficato, però siamo sempre pochi, dai. Sono più quelli che stanno entrando da fuori che noi. Dai, io vi devo lasciare che arriva la gente, dai, le prossime. Ciao Natalia, dai, ci aggiorniamo, stammi bene, a più tardi se coincide, vai di Roberto. Ciao Natalia, il telefono, la pandemia un attimo, ci sentiamo dopo. Cappa, vai già. E vabbè, tu prepara il progettino poi a FTD, che lì infatti è meglio avere il tetto rispetto alle tegole. Puoi fare molte più cose, capito? Mettere un dipolo, un'altra antenna, qualcosa del genere. Molto meglio, con le tegole è un casino, non si può lavorare. E Roberto al telefono. Ehi, no, ma poi qui, le tegole non si può lavorare, no? Se sono bagnate non puoi salire, d'inverno non puoi fare nessuna manutenzione. No, non è così, non è così. Io fortunatamente c'ho il terrazzo e tegole non ce n'è, e quindi posso salire anche d'inverno, naturalmente se non è bagnato, perché è sempre pericoloso, però è diverso, ho capito, puoi trafficare di più o già, è un casino, le tegole, mamma mia, le tegole non fa, non fa. Vabbè. Comunque senti la tuo zio, come cavolo si chiama, vedi un po'. Fammi sapere più avanti, magari adesso no, questo mese no, perché c'ho altre cose, c'ho altri impegni e non voglio uscire fuori dal budget. Però il prossimo mese sì, capito? Ma già, l'attività radioamatoriale non è buccia di gioco, non è che puoi lasciare a Mantova, no? Ci vogliono direttive, ci vogliono apparecchiature, non di certo fare attività con 440, ci vogliono direttive, prima le antenne e poi le radio, questo mi hanno insegnato a me, anch'io ero convinto che ci volevano le radio prima e poi le antenne, però ho capito che non funziona così. Ci vogliono prima le antenne e poi le radio, caro Gianni. Fare attività amatoriale non è buccia di gioco. Ci vuole un pacco di dinero, un bel. La radio costa, deve essere attrezzato, le VHF deve averle con le bande laterali e quelle radio costano un pacco di soldi. Devi avere tutto, se poi vuoi iniziare con un'antenna verticale giusto così per divertirti, va bene anche così, però se parliamo di attività amatoriale non confondiamo la lana con la setta, continuo a dirlo fino a quando capo che l'attività amatoriale è una parola seria, non è che uno dice mi prendo la patente e faccio l'allevatore, bisogna saperlo fare l'allevatore e soprattutto avere le attrezzature per poterlo fare. Sono arrivi da qui alla Landrica. No, neanche alla Landrica adesso arriva. Ehi, capito, Tio, però ti ripeto, ribadisco che non è un gioco. Uno si prende la licenza, la patente, per la detenzione delle radio non omologate, è un discorso. Se poi deve fare il radiomantore, allora è un'altra cosa. È un altro pianeta, già. Te lo dico per esperienza vissuta, capito? Perché io avevo le radio di tutti i tipi, però non avevo antenne. Quando ho montato le antenne, ho capito che ci voglio prima le antenne e poi le radio. È completamente diverso. E poi ci vuole soprattutto l'esperienza. L'esperienza per poter fare veramente attività amatoriale, quindi saper fare andare le antenne dove devono andare, conoscere tutte le cose necessarie per poterti garantire di non farti prendere a fischi, perché oggi fare l'animatore è una competizione, no, non è più come una volta, capito? Vecchietti ce ne sono pochi, c'è tanta gente giovane che ha voglia di uscire a palla e di passarti sopra, quindi manco ti fanno entrare se vedono un segnalino da niente, capito? Quindi questo è quello che ti voglio dire. Poi è chiaro che la passione ce l'hai, quindi avere un pezzo di carta in più è sempre meglio per la detenzione delle radio, come avevo fatto io nel 93. Io non avevo nessuna intenzione di fare attività amatoriale, non ne ho mai fatto. Avevo il mio diporo a 5 bande, ascoltavo e chiacchieravo a livello locale, però stiamo parlando del livello locale, però le radio ce le avevo tutte. Però per poter fare attività, caro mio, ci vogliono le antenne che costano, antenne che girano, se no non arrivi, manco la Landrica. E anche parlare le lingue uno bisogna che sappia, se no ti piglia una frusci in chi, ci fate le bugie. Sì, ma te l'ho detto anche un altro, se parliamo di chiacchierare con l'Italia e fare QSO i 40 metri, e come fanno tutti, io ascolto tantissimo, non c'entro perché non mi interessa, oppure chiacchierare con un amico a livello locale è più che soddisfacente. Intervieni, chiacchiere fai, però devi farti sentire, se no ti passano sopra, ti pigliano in giro, ma non è più come prima, capito? Caro Gianni, poi a livello amatoriale, come a livello locale, perché se anche tu sei amatore, parli come il centro, nord e sud Italia, sei sempre a livello locale, per noi quello è a livello locale, perché arrivi come un locale, però se parliamo di XC, allora è un'altra cosa. Allora lì devi sapere le lingue, devi sapere manovrare bene le antenne per poter ricevere il minimo segnale o il massimo segnale. Cioè, bisogna saperlo fare l'allevatore, non è dire io ho la patente, sono l'allevatore, anch'io sono l'allevatore, ho la patente ma non sono un allevatore. Non sono un allevatore a livello degli altri che fanno veramente attività radiantistica, è un'altra cosa. Sono due pianeti diversi. L'allevatore a livello locale lo può fare chiunque, ma quando parliamo di XC, cioè a livello di collegamenti oltre l'oceano, allora attenzione che lì stiamo parlando di poche persone che riescono a fare veramente quel tipo di attività, capito già? You have nine. E ti faccio una foto e te lo mando, ce l'ho dentro l'armadio, non accende più il mio. Non accende più, cosa hai detto Natali? You have nine. Sono molto importanti le lingue, la dialettica, la professionalità, è importante tutto e non è facile, non è facile. Ripeto, ribadisco, a livello locale chiunque si mette, oh ciao Peppino, come stai? Sono Claudio della Sardegna, tutto ok? Come che stai parlando a Sassari? Perché i segnali sono quelli. Io quando saluto qualche amico a 40 metri, il minimo segnale che mi danno è 9,20, quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che sei qua, una volta che hai l'antenna sei qua, però tutto il resto è noia, caro Gianni, non le bugiali giocano, come dice qualcuno, NBDG, e vabbè, c'è Pino Rondine che era rimatore, se tu lo senti parlare in 40 metri sa solo dire che parla la Vidalba, un paesino a un chilometro e mezzo dal mare, che sta usando il 590, non sa dire altro, capito? Quindi no, non è difficile Gianni, non è difficile, ti metti in mezzo, ti butti e va bene così, capito? Ora noi, Natalie, grazie. Questa è la pura verità, tutti sono convinti che non è NBDG, come dice mio padrino, bisogna sapere fare le cose, fatti, non parole, capito? E hai fatto bene, no, Natalie non c'è gente, quindi magari parla sbalzi. Come sei rientrato? No, è Roberto al telefono. Va bene, così è, comunque. Siamo così, ok, lui è un, mamma mia, vestimento, che non ti dico io, sì. Me ne sono pentito di aver investito tutti quei soldi nelle antenne, commutatore elettronico, altra radio, perché ne avevo comprato un'altra. Alla fine poi se non hai veramente la passione per poter fare quelle cose, stare lì per chiacchierare a livello locale, cosa ne va delle direttive? Non ne fai niente, infatti adesso ho tempo buono a marzo, aprile, appena insomma arriva la primavera, faccio una pulizia totale sul tetto, lascio solo la mantova e basta. Perché poi magari se riesco a trasferirmi entro il 2018, almeno ci metto 10 minuti a staccare la mantova, va bigiudutto e ma via, sennò qua ci vuole una settimana di lavoro, cioè tra smontare le antenne, tutti i cavi, staccare tutto, rimettere tutto in ordine su. C'è un casino che non viene bene a dirlo, di cavi, cavetti e antenne a destra e a sinistra. E vabbè, riprendi. Ma su Padru. No, già, sta arrivando, il movimento ce l'ho, però qualcuno ha già provato a chiedere molto e non gli hanno concesso perché non ha i requisiti, quindi niente. Ma tu faceva sapere se riusciva a recuperare diversamente. Un altro paio mi devono dare una risposta, l'ho già vista la casa, mi è piaciuta anche il posto, perché c'è il posto 8, ne ho due, io ho capito. C'è il giardino, c'è tutto, è abbastanza tranquilla come zona. E devo aspettare, se non vendo questa non posso movimentare altro denaro perché mi serve per fare altro. Capito? E quindi devo per forza far fuori questa già. Poi adesso sai, da pensionato non è che bisogna andarci con i piedi di piombo, non ci sono più gli straordinari, non ci sono più le entrate extra, quello ti danno e tu devi far bastare. Sono rientrato. Claudio, ma è stata una sorpresa la pensione tua, cioè personalmente o te l'aspettavi? No, io sapevo già che mi mancavano due anni, perché io ho iniziato nel 76, ho convinto che avevo iniziato dopo che ho finito il militare, che quindi quei contributi che avevo non me li avessero conteggiati. E Antonio già lo sapeva, due anni, quindi andavo con 42 anni e qualche mese. Però mi sono deciso finalmente di andare all'INPS. Hanno controllato dal 76, quindi avevo 16 anni, mi hanno dato due anni di contributi pagati per lavoro precoce, capito? Quindi ho iniziato prima del 18° anno a lavorare assicurato su una cooperativa di produttori, questa cooperativa Quattro Muri, e quindi sono riuscito praticamente a mettere tutto a posto, e adesso ti ripeto, da dicembre no, sono a casa, sono già a casa dal 28 di ottobre, capito? Stavo facendo altre cose, patronato, bim bum bam, che domani mattina mi devo, alle 10 ero vicino al patronato che volevano vedere un conteggio, volevano vedere le ultime buste paga per aggiornare il conteggio pensionistico. Però ho la macchina così, quindi le telefono, ma ci vado martedì, prima voglio far vedere quel problema a Danilo, capito? Scappa, ma dimmi una cosa, ma TFR a te trova dove stai lavorando adesso? Sì, beh, la casa madre mi ha già liquidato 5 anni fa, quella mi ha già liquidato 5 anni fa quando io ho fatto il passaggio in depurazione. Eia. Sì, quella mi ha già liquidato 5 anni fa, adesso devo prendere l'altra, quella della, già lo sai di chi, senza fare molta pubblicità, ne hanno 60 giorni di tempo, ma non è quello il problema, c'ho ancora tutto lo stipendio di ottobre, quello di novembre, tutta la 13esima di dicembre, quindi già si tira a campare, non è quello il problema. E poi penso che dopo, da gennaio, mi liquideranno e poi vado anche a prendere la pensione. Per due anni la prendo dell'85%, dopo i due anni la prendo del 100%. Va bene, a me non ti rovini la salute, perché andando a vemo stateralmente. Vabbè, non so quello, tu già lo sai i sacrifici che ho fatto lì, ma già lo sai anche l'amico nostro, no? Infatti è contento da una parte ma scontento dall'altra perché non c'è copertura, ma questo lui lo doveva sapere, ne abbiamo già parlato, lui questo lo doveva sapere, che lì purtroppo o lo inseriva quando c'ero io e quindi prima di andare via io riusciva ad incrementare quella capacità, quella certezza di poter rimanere in quella zona, oppure siccome l'azienda non gliel'ha concesso, quindi adesso c'è uno a coprire, ma non è molto, molto scontento Antonio, capito? Non è come quando c'ero io. Poi adesso siamo d'inverno e va bene, ti puoi anche salvare, ma da aprile lì, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre sono 6 mesi di fuoco, e 6 mesi lì devi saper cammellare da solo, perché se sbagli paghi, Roberto. Quindi è contento da una parte ma è scontento dall'altra, perché ogni tanto ci sentiamo. Ho detto preparati, mica il 30 novembre sta arrivando. No, non te ne do lettera io, e non me ne dà la lettera a tu, no. Ma dimmi una cosa, ti danno l'85% e ti conviene a te? Vabbè, sono 120 euro in meno dello stipendio, non mi fanno né ricco né povero. Ah, sono poco, no? Pensavo qualcosina di più. Allora già vai, dai, meglio stare tranquillo. Poi quelle 120 euro le recupero fra due anni. Capito, me la danno piena, ma te lo dico di persona quanto è la pressione, è abbastanza buona, è oltre i 1000 di brutto, capito? Quindi va bene perché i sacrifici ne ho fatto tanto. Continuare a 58 anni a mettermi a fare 200 km al giorno, poi in quella zona d'inverno, del caldo, d'estate, il movimento, la paura, no? Perché la conosci quella zona. non si può camminare manca a piedi, dal traffico che c'è, dal movimento che c'è, dal lavoro che c'è da fare e seguire. L'inverno è al contrario, l'inverno piove, c'è un bel freddo, c'è ghiaccio, nevica, perché nella zona di Trento è molto nevica, quindi ho detto ma a me che me lo vado a patente ero in manco, ma me rimango a casa. Infatti quando mi ha detto allora quello lì, se funziona lì, mi ha detto guarda, questi sono i suoi praticamente la sua cartella. Allora, se lei lavora questi due anni, questo è quello che percepisce fra due anni. Se lei non li lavora percepisce questo. Ho detto dove devo firmare? Non avrei pensato due volte. Ok, riprende Capri. Non lo so, io penso se arriverò a 95 anni forse riuscirò a percepirla. No, allora è a carattere familiare, già lo sai come funziona la nuova, il cacchio. Cazzo, mi difendi, quanto è me? Ma tu sei quanto è me, quanto ne hai? 59. Quindi sei quanto è me. Aspetta, 20 anni sono pochi. Arrivare a 65 anni maturi molto poco, maturi molto poco. Vabbè, però se è quello. No, ma io ero convintissimo, guarda, al 100%, perché mi ricordavo di aver iniziato molto giovane. Ho detto, ma no, non penso, ma abbiamo pagato questi contributi. Invece quando sono andato all'Ips, funzionario mi ha fatto anche i complimenti. Ma è una delle poche volte che vedo veramente uno storico Ips a un livello eccezionale, ma contributi però, contributi molto, molto alti. Molto molto alti, capito? Poi vabbè, quelli ce l'avevano già tutti, Roberto, quello militare, ne ho fatto 24 mesi, ne ho fatto 6 mesi a Livorno e poi sono arrivato alla Maddalena, alla scuola di sottufficiali e ho fatto praticamente 24 mesi, 2 anni a Marina, quelli me l'avevano già tutti. È andata bene, beh, è andata bene. Poi la cosa bella è che quando sono partito militare mi hanno tenuto in forza, capito? Non mi hanno licenziato perché lavoravo con la società costruzioni immobiliari, con la SCI di Benassi. Non so se l'hai conosciuto tu a Benassi, all'Asio, che Benassi cos'è stato allenatore, no, all'Asio è stato allenatore della Torre, se Benassi presidente, non mi ricordo. No, vabbè, tu hai iniziato da ragazzino, però tu eri come dipendente, a voi era più semplice. Purtroppo noi eravamo, anche io da ragazzino, da grande elementare, d'estate si andava sempre a lavorare, non c'era la vacanza, la domenica solo c'erano le vacanze, da quando all'elementare andavamo, sino ad adulti. Contributi io, boh, non lo so, ne avrò, cioè se conti miei sono giusti saranno dal 90 a 27 anni più o meno. Io vabbè, già, anche tu sei grandetto, però il discorso è quello. No, io mi ero, come ho finito le medie, ho iniziato subito a lavorare, poi mi ero iscritto a geometri, però continuavo a lavorare, capito? Continuavo a lavorare perché c'era bisogno, io sono orfano di padre da quando sono nato, io ho 3 mesi quando è morto babbo, quindi c'era necessità di muovere le chiappe, ci siamo dati tutti da fare, grazie a Dio mia madre non è mai mancato niente, anzi ne ha da vendere oggi, proprio perché ci siamo rimboccati le maniche tutti, sia i maschi che le donne, abbiamo sempre lavorato e oggi diciamo che mi sono trovato bene, dai, mi sono trovato bene, se mi lascia Gesù Cristo me la godo, se no vabbè, forse anche sui ribietti. Ma tua mamma dove vive? A Porto Torre c'è mamma, Alghero era andata via, poi ci abita solo 2 mie sorelle, a Porto Torre. Sono con tue sorelle vive, dico? No, c'è la casa sua, ma c'è il suo marito proprio. Suo marito proprio che era un carissimo amico di famiglia, ci ha visto praticamente nascere dopo tanti anni che lui veniva sempre a casa, frequentava molto casa, hanno deciso di sposarsi a vecchiaia. Lui era un funzionario dell'Eniche, un capoturno dell'Eniche e lei vabbè la bidella nautico, quindi stanno benissimo, non le manca niente, anzi ne hanno, stanno bene, vabbè. Stanno bene tutte e due, lui è una persona eccezionale, le vuole molto bene, quindi mi pare 5 anni meno di lei, mamma ne ha 82, lui ne ha poco più di 70, insomma. Sì, no, sono contento, non so se cos'è. Buono, almeno si gode la vecchiaia con una persona in compagnia, perché poi molte volte fanno delle scelte di vita, rimangono tutta la vita sole queste donne, almeno ho trovato un compagno, una persona affidabile. Sì, ma mamma si è sposata che aveva 70 anni, mi pare. Cosa pensi che si è sposata? Proprio che siamo stati noi, visto che le cose erano tutte messe a posto, noi siamo tutti sposati, ognuno c'è la sua casa, ognuno è tranquillo e sereno, mi ha detto ma perché non ti sposi almeno, virgolette, la vecchiaia tranquillamente, hanno fatto una bella festa, è rimasta contenta, e cosa fai? Purtroppo è così, certo non si è sposata subito quando è morto babbo, mamma non voleva più sapere, era una cosa allucinante, è rimasta 5 anni chiusa dentro casa, che si era mai niente, a quei tempi purtroppo il lutto era quello, capito? Mia sorella, la più grande, aveva 7 anni, figurati tu 8 anni, forse sì, 8 o 9 anni adesso, non mi ricordo bene, però cazzo c'ero io che avevo 3 mesi, capito? Quindi è morto inizio del 60 mio padre. Ma improvvisamente o di malattia? Una coglionata, Roberto, una strozzata. Un calcolo alla Cistifeller, è andato a operarsi per un calcolo alla Cistifeller e non si sono accorti che era diabetico e ne è morto d'emorragia. Figurati, grazie, mamma mia, adesso ti arresterebbero, cazzo, ti denuncierebbero a tutti questa cosa. Lo so, purtroppo, infatti mio fratello è l'unico di famiglia che è diabetico, mio fratello è ereditato da mio padre, a 16 anni ha scoperto che era diabetico, ne ha 59, ne fa 60 a marzo. E anche lui va in pensione, però l'ha già avuto che l'ha iniziato quasi assieme a me, però era sempre 13, quindi non aveva grandi contributi, invece io ero proprio, mi piaceva il lavoro, mi piaceva avere i soldi in tasca, perché io quando uscivo la domenica non c'era niente da fare, a 18 anni mi sono preso la patente, la macchina, avevo la moto, mi divertivo, però la mattina alle 7 io partivo ad andare a lavorare, anche se rientravo alle 3, alle 4 del mattino, però alle 7 io partivo ad andare a lavorare, come ho dimostrato oggi, dopo tanti anni la stessa cosa, attaccatissimo al lavoro, fatto bene, con dignità, però basta, a Gia Dado a travagliare l'altro. Eia, ok, avanti i capri, ma non c'è nessun altro, solo noi tre siamo. Allora, ma dove hai studiato tu in Cosio, di fronte alla Tana? Allora, professor Canes, quando c'ero io, mi pare che era già andato via, il preside c'era quella donna, non so se te la ricordi, che non mi ha messo il nome, e Binello c'era già Carlo. Cattaneo, guarda, mi sei partito da Trebeto, perché sono arrivato 2 anni dopo ai geometri, 2 anni dopo, perché ero nautico prima io. Io ho fatto i primi 2 anni al nautico e poi mi sono iscritto ai geometri, ma sono andato al nautico, non mi piaceva la vita di mare a me. No, assolutamente, ma infatti mamma mi aveva preso una grossa delusione, cazzata nera, perché voleva che io continuassi lì, capito? E quindi tutti gli altri hanno fatto scientifico industriale, mia sorella e miei fratelli e mio fratello. Io ho fatto nautico e geometri, capito? E quindi l'anno era l'80, allora fammi pensare. Mi controllo il coso, non me lo ricordo esattamente, io sono arrivato 2 anni dopo, sicuramente dopo di te, già riprendi Roberto. Allora io ai geometri sono entrato nel 77 e mi sono diplomato nell'82. Il preside quando c'ero io c'era Mozzo e poi era entrato Guascari. Ho avuto come professore Cannas, Mura, Mele, Cordella, Asole, la Cattaneo, la professoressa italiana, adesso è morta poverina, la professoressa di mia sorella, una bellissima donna. Ho avuto tutti i professori Addis di coso, di topografia, poi che cacchio c'era, ingegner Bosinco, tutti quegli anziani li ho avuti io. Professor Mozzo, ma era ingegnere il professor Mozzo? Certo, era ingegner Mozzo, sì, e il figlio giocava a pallacanestro Mozzo. No, era una brava persona, anche se non lo potevano avere qualcuno. Poi era Guido Imbecillotto di Sussu, è stato un anno preside, l'ultimo anno come sono andato io, dopo solo di educazione fisica, poi c'era, come si chiama quell'altro di educazione fisica, quell'anziano, cacchio, Affannato, non mi viene il nome, Mela, sì, ma era in laboratorio, stava, lo conosco molto bene, guarda, tutti i professori, quelli, e perché De Lugo, l'inglese, nessuno l'ha avuto, ma non ti sei diplomato? Allora, sì, adesso mi hai fatto un po' di memoria, quindi molto, vabbè, sì, molto l'ho avuto, molto l'ho avuto. Catania era quella bella bionda, quella signora lì, vabbè. Non era bionda, era bruna, una bellissima donna, poverina, è morta di tumore con la professoressa, la professoressa di mia sorella, ma era una bellissima donna, nei bagni era scritto Cattaneo Bona, in tutti i bagni era scritto, perché era troppo bella quella donna, proprio veramente. Poi c'avevo la Santuru di matematica, la Cordella, ho avuto io, ma quelli storici dei geometri sono Cannas, professor Mele che è morto, Buonanima, nei Lugo più di tutti, poi c'era Mura, ingegner Mura, ah, coso di chimica c'avevo, oltre la Cordella c'avevo Brunello Dessi, l'ingegner Dossi. Ingegner Dessi, Brunello Dessi di chimica e la Cordella ha avuto, poi c'avevo brava insegnante, però era troppo umana, troppo coso, la Zone di matematica, quando già ne ha crepato noi due di coso, e poi c'avevo di diritto Cesare Frau, troppo in gamba, che ha promosso a tutti, tutti bravi eravamo, quello che c'ha l'aeroporto di fronte allo stadio di Platamona, quello con gli aerei che gira, lo conosci? Ah, isso. Ma non sei morto anche colui, com'è che si chiama? No, non credo, Cesare Frau, che sia morto, mi pare Frau. A poco l'ho sentito, ma l'avevo letto nell'omagatia. Non lo so, dimmi una cosa, Cla, ma quello che è morto, lo conoscevate? Sì, di vista, lo vedevo qualche volta quando andavo all'impianto di carica, perché lui abitava lì, con la strada lì. Allora, 79, 80, 81, sto controllando, 79, 80, 81, poi qua c'è il buco, 82, quando ti sei diplomato tu, io sono tornato a scuola, 83, 85. No, io no, allora tu hai trovato il mio cugino, i due miei cugini hai trovato di lì, che erano nell'altro coso, dove c'era coso, ma cacchio si chiama, Busincu, quello mezzo finocchio. Ho capito che tu non l'hai conosciuto a Carlo come bidello lì. Carlo, chi Carlo? Carlo Carboni. E dico, aspetta, sì, adesso mi sta facendo venire, mi c'era un Carboni, adesso non c'ho presente. No, era il geometri Carlo. L'avevano ascoltato dall'altra parte, ma era il geometri Carlo. Mi ricordo, perché me l'ho conosciuto io lì, stai scherzando. L'ho conosciuto lì io, perché io lì ho fatto terza, quarta e quinta. Capito? Terza, quarta e quinta. Me l'ho conosciuto lì io a Carlo. Ehi, caspita. L'ho conosciuto lì, quindi. Perché poi lui nel 90... Che anno è andato in pensione Carlo? 96, 97, 98, boh, non mi ricordo. E se la Maria te la ricordi quella zoppa, la bidella? Quella zoppa è... La zoppa va di arrivare a me quando si cazzava, vabbè. Ma il bidello te sta dicendo? Aspetta, avete parlato in due, non ho capito. Cos'è detto qua? Di chi stai parlando? Quella zoppa, la bidella, come si chiama? Come si chiamava? Boh, c'era molta. Sì, è morta, era amica intima di mia zia, a me mi voleva di un bene, anche se mi cioè, nel senso, per non far vedere le differenze, perché io a nessuno le dava di gesso, io andavo ad esempio, noi ce lo tiravamo a testa il gesso, e andavamo sempre da lei, l'unico che me la dava era a me, non le dava a nessuno, no, Farina mi chiamava a me, io andavo, si chiama Rima, no, sì, solo perché sei tu, agli altri non gliene do, sempre una bianda era, col tetto che tu di susso era a tetto, io ero con un tuo paesano, già te lo ricordi, con coso, con Prottino Buonanima ero, Gianni. Beh, io l'ho conosciuto a Carlo, iniziavamo a giocherellare con i baracchini, nei sciuvia, per carità. E bei tempi, adesso a scuola, lui, il Ganaleta venne, io figurati che ero l'unico assentista, infatti proprio quella bidella di zoppa, c'era Maria, mi riprendeva quasi tutte le mattine perché lavoravo, capito, quindi arrivavo sempre in ritardo, a volte non entravo, a volte un casino era, e vabbè, però anche quello mi è servito. Oh raga, io vado a portare il carro, sono le 8:20, non me ne ero mai accorto, dai. Ci sentiamo dopo, se ci siete, vabbè, noi ci vediamo domani mattina, dai. Dillo a Dario, fa sta cortesia, almeno a qua. controllare e mettere in sicurezza la cosa prima che non chiediamo la manna di occulto. Di aspettarmi che ci prendiamo un caffè, ok? Tanto arriverò prima io di lui. Ehi, non ti preoccupare, dai, ciao Claudia. Io ho detto che io tra poco chiudo, dai, rimango 5 minuti con Gianni e poi chiudo, dai. Ma poi non ti sei diplomato tu, Claudia? Sì, sì. Ah, ti sei diplomato pure? Sì, dopo, mi sono presentato come privatista perché mi ero ritirato in quinta. Ah, non lo sapevo, scusa, stavo parlando Gianni, dimmi già, aspetta, ti avevo parlato sopra con Claudio, non ho capito tutto il discorso. Ripeti, sei andato tu come volontario, sei partito in esercito e poi hai fatto il corso nei carabinieri, così. Quanto hai fatto di carabinieri? Ma tu sei andato in accademia, cosa hai fatto? Come hai fatto a andare? Ma che cos'è di che reparto operativo, nel senso uscivate in macchina o cosa facevi? No, ho capito. Ma hai fatto qualcosa la voce, ti sento più cupo adesso. Sì, ho aumentato le messe di Michigene. Ho detto, vabbè, sì, mi ero ritirato in quinta perché ho avuto problemi. E poi mi avevo presentato il programma, tutto, e ho lavorato l'esame assieme agli altri. Non è che sono uscito uno massimo, 75 l'avevo preso, ma non me ne fregava niente. E non andava bene. No, sono contento che c'è il titolo. È sempre qualcosa. Beh, altrimenti quello che facevo lì, non è che lo potevo fare, perché sono stato a Cagliari, lì alla costruzione del depuratore della Sara, sono stato da tante altre parti. Poi quando ho fatto il passaggio, che tu sai, dalla potabilizzazione alla depurazione, ho voluto seguire la conduzione e basta, però già mi è servito, vabbè, se no non ci saresti mai entrato dove sono entrato. Io lo sai, lì è convenzione regionale, quindi concorso l'avevo fatto proprio per quello io. Sì, qui dobbiamo chiamare il geometra. A me, a sempre Claudio mi chiamo, non mi ha mai chiamato nessuno il geometra, ma assolutamente. Sempre Claudio, geometra è uno che ha il titolo di esame di Stato, perché Giulio non è geometra. Però no, quando è geometra deve avere il titolo di esame di Stato, iscrizione, balevai. Quello è un diploma, come può essere qualsiasi tipo. Va bene, dai, vado a portare il cane, se ci siete dopo, altrimenti vi saluto, un abbraccio, vabbè, noi ci vediamo domani. Ciao, passo e chiudo. Ciao già, ciao già, ciao Claudio, buona passeggiata, non so se mi trattengo perché anche io tra poco chiudo, se no ci sentiamo domani mattina, vai Gianni. A chi di Banale ce n'era uno ma non si chiamava a corda, esattamente si chiama, erano tutti più grandi di me, gente di 24-25 anni, io ne avevo 18, gli altri c'erano anche di 26 anni, erano tutti fuori, io ci avevo Mastino, ti ricordi quello di Cargeghe, l'amico intimo di Prottino, e lui, quello di Banale, hai detto come si chiama, non me lo ricordo, ma era un antipatico, mamma mia, guarda, non per parlare male dei paesi, ma era proprio uno degli più antipatici della scuola. Poi c'avevo Giansalvo, Sanna Giansalvo, lo stesso di quei paesi di lì, quelle zone lì era, quello aveva messo incinta la ragazza e ha dovuto abbandonare la scuola, no, non lo conosco, erano tutti dei paesi, guarda, di Sassari saremmo stati 6 o 7, non di più, poi ce n'erano di Usini, di Olmedo, Salaris, quello che c'ha il coso, l'edilizia di Olmedo, un bravo ragazzo, era il più bravo della classe, Cocco c'era, Roberto Cocco, Detturi, Antonello Detturi, Sassarese eravamo 4 o 5, non di più, e già lo so ce n'erano tante, no, ma i miei erano tutta gente che aveva fatto il militare, che avevano fatto il rinvio alla fine sono tornati qua a studiare, però li hanno tutti crepati, tutta quella gente lì, a parte qualcuno, erano tutti, noi eravamo, quando io ho trovato professore di scuola, tu eri nella famosa quinta B, era, lo sai dove stavamo noi, nei sotterranei, sotto, noi vedevamo i piedi delle persone. Marco Cusso, adesso non ce l'ho presente, il nome non mi è nuovo però, di dove era questo? Lo sai che hanno rifatto adesso, hanno presentato a Milano, sono il ciclo motociclo di Milano, la Morini 3,5, te la ricordi? No, a me non piaceva perché c'era quel motore a V fronte marcia, no, non mi piace quel tipo di moto, però adesso le stanno rivalutando, non le trovi più mi premoto. Io in officina c'ho un Morini 125 Corsaro, poi ho finito di restaurare, non so se l'hai visto l'altro giorno, quando no, forse non c'eri, lo Zigolo, bello, nuovo fiammante, è ritornato. Di un amico che me l'ha lasciato almeno 7 anni ce l'ho in officina, gli ho detto se non se lo portava via ce lo butto, tienilo, adesso secondo me me lo me lo prendo, me lo metto a posto. Adesso mi devono portare, non so se domani o dopo, abbiamo fatto contro lavoro un amico, lo tornello sport, lo conosci, del 61, e si assomiglia, come ciclistica si assomiglia molto allo zigolo, cioè, per me c'è lo stesso manubrio, molte cose sono uguali, simili, anche le ruote, la sella, il serbatoio, mi sembra molto simile. Sì, già lo so, usavamo la stessa paletta nel cortile, non so se ricordi. Poi quando c'ero io facevano le battaglie, magari quando c'eri tu se sei andato dopo, io sono andato dal 77 all'82 quando era il pieno dei geometri, erano campioni nazionali di pallamano, giocavano sempre con i ragionieri nella nel piazza della paletta, nel cortile, ma erano guerre, era una cosa mai vista. E certo, noi avevamo gli articoli sportivi in via Coso, vicino a Grishenko, in via Bessa. E io. Ma dimmi una cosa, tu sì, da che classe sei arrivato? Mi hai detto, è geometri. E com'è che sei entrato nel giro di scuola, bus? Scappa. Ma il pullman ce l'hai ancora tu? Ma tu cosa c'hai di mezzi tuoi? Cosa ti è rimasto? Scappa, no, io adesso mi sto vendendo il camper mio, perché è troppo grande, non me ne faccio niente, tanto non mi serve. Così mi prendo un Ducato tetto alto e me lo trasformo in camper puro, cioè ci metto le cose indispensabili e basta. Adesso infatti appena vendo quello lì ne ho visto qualcuno su internet e mi organizzo. Se ciò che cosa? FT101, che cos'è? Della Iaeso? No, della Iaeso non c'è niente, ma così ho portato. No, ma per lei cos'è? Per le U o per le V? No, io ho il TS711 della Chemudo per le VHF. Poi ho, aspetta cosa c'ho? FR101, c'ho un coso, un Sommercamp FR101 e poi c'ho un Kenwood TS700 per le cose, neanche me le ricordavo queste qua. No, a transistor. Ma l'FT101 non sarà uguale all'FR101, che c'è il frequenzimetro centrale rosso, uno strumento e un manopolone centrale. Perché il Sommercamp e Iaeso è la stessa cosa, cioè producevano con due marchi diversi, ma gli apparati erano uguali. Io c'ho il trasmettitore, fa la trasmettitore e ricevitore, c'ha un manopolone con l'indicazione della frequenza in alto, digitale, poi sotto ci sono i kilohertz. È vecchio, mi sarà degli anni 70 questo apparecchio, però è una bizza, è due volte un 440. Sì che va in 27, certo che va in 27, sì c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una decina di bande c'ha. No, questo che ho io è nuovo, è bello, come l'FT, il TS700, sono apparati vecchi, però sono nuovi, cioè li vedi esteticamente sono cose in ordine. Allora, microfono, qua ci ha abbinato un palmarino, allora il TS700 c'è un palmarino, l'altro c'è un microfono particolare, quelli a jack, che sono quelli vecchi, non ce l'ho neanche, vabbè, dovrei adattarlo al microfono, ma ce l'ho più che altro estetica, non, li metto solo per sentire e basta, non per parlare. Guarda, adesso mi stai facendo venire i dubbi, lo sai che non sono sicuro che sia completamente a transistor questo, che magari c'ha lo stadio di preamplificazione a valvole, al 99% è a transistor comunque. No, allora niente, questo non è solo a transistor, dai, non ce n'è accordo qua. Come mai ne hai due 440? Nuovi? Non ho capito, uno cosa c'ha? E come mai? Ok. E l'altro è nuovo invece. Ma come mai ogni tanto cambia di modulatore? Adesso questo passaggio ti ho sentito chiarissimo, poco fa eri tutto distorto. Così sei perfetto, non parlare, ma stai usando l'MC60, ma non è amplificato l'MC80. Si sente bene, fai un passaggio più lungo. No, è bello, si sente meglio del 60, cioè la voce tua rende di più. Lo sai dove ne stavano vendendo uno 50 euro a quel mercatino Samarcanda, quello che c'è andare Porto Torre? Scusa, sto dicendo facile, un MC50. E funziona bene? Dimmi una cosa, ma tu scusa un attimino la telefonata, vai, ci sentiamo tra poco, mi stanno chiamando al telefono, scusa. Mi, no, vedo. Dove siete? Dove sei già? Cosa? Sono i pariti. Non intendo più, dove sei, io sono per portare il cane, adesso sono rientrato attraverso. Via. Vai, troppo reverbero, boh, ecco, come abbiamo, siamo due azioni, fra. Ehi, così ti capisco, prima non capivo niente. Le rotelle si girano molto facilmente in questo periodo. E se no così va già bene, fra. È che era troppo alta di cose, ho capito. No, va bene quello. Io credo che va bene. Via, fra. No, va bene, abbastanza. Va bene. Ehi, stavi dicendo, che è uguale, è la stessa cosa. serie, che è fenomenale, quelle che usano per modificarle, però non l'ho mai modificata, è originale, capito? Adesso sto andando con la Superstar 3008, quello di Massimiliano, questo è un Colt però, questo è un Colt, capito? Io lo sto usando chiuso con l'MV più 5. Il 48SX stai dicendo tu? Sì, sì, ma non è uguale a quello. No, no, quel baracchino, io ti ho detto, ce l'ho uguale quel linearetto che c'è sopra la radio, ce l'ho uguale. Sì, ma per usarlo con un baracchinetto, per esempio con un baracchinetto che da 5 watt è ottimo, però io non è idrato, capito? Non è all'opero. Lascio stare così, mi sto operando questo di Massimiliano che c'ha quasi 20, più di 20 watt modulati, una giudizia appena. Capito? Giusto così per farlo andare, questo lo sta vendendo, se interessa a qualcuno. Infatti queste sono radio da usare in barra, non a casa, anche se questo è molto bello perché si può chiudere anche il parlascolta e quindi non succede niente, capito? Non intende tutto da brutto, metterò la 48 cervo io, però l'ascolta ce l'aveva diretta, non si può dire di niente a casa. E infatti l'avevo venduto a Gianni Dischetto. Così, tanto per far andare, perché Massimiliano non lo usa, ne altre due o tre, e quindi in realtà me stamattina a usarlo un po', e glielo sto usando, però io fa brutto, no? Meno piano sia propagazione di 45, ora cambio microfono, metto quello normale, approvecco e non posso andare là nei Caraibi, però così per fare due chiacchiere è più che sufficiente in queste condizioni, dai. Mi hanno detto che va molto bene come radio. Che è Gian? È Claro, amico. Franco di Sosso. Ah, ciao Franco, sono rientrato comunque, mi hanno dato il telefono di nuovo. Gian, cosa ho rimasto? Capri? No, l'ho chiamato ma non mi ha risposto. Riprendi e salutare Franco, vai. Sì, mi ascolti bene? Sì, a voglia. Sono qua. Neanche io ti ascolto, cioè questo è un po' troppo persistente, comunque ti ascolto bene. Segnale Santiago 9 qua. Ehi, a Gianni Capri l'ho chiamato un attimino, stavamo parlando, poi ho detto sono al telefono, forse mi sono trattenuto un po' troppo e probabilmente ha chiuso. Gianni Capri, se ci sei batti un colpo. Lui, oh, i colpi della moglie se non ce ne ha mangiati. Ah, così è. Sì, sicuramente, questo è un altro tipo di apparecchio sicuramente. Io qualsiasi apparecchio uso, baracchino o radio come Cristiani, la mia modulazione è sempre questa, questa va benissimo, per fare due chiacchiere più che sufficiente, poi molto selettiva questa radio, non sento niente, colpi, nulla, come il Galaxy, la stessa cosa, ma la 48, micchia. Quando accendo quello non ci deve essere nessuno, se c'è qualcuno anche passando col camion prendo colpi. Prima cosa, il mio microfono, il livello del microfono, siccome questo sono da parecchio che non lo faccio andare, va bene, sono qua sull'uno io. Sull'uno devi tenerlo, anch'io ce l'ho uno, il K stai dicendo? Sì, ah no, stavo controllando perché magari rimanendo fermo, magari il potenziometri si deteriora, non lo so, magari. Comunque è sull'1 poi. Sull'1 lo tengo anch'io, 1 e qualcosa, beh. 1 e qualcosa, processore inserito. Questo invece ce l'ho a 5, a metà, con i toni a 5 lo stesso, 5-5. E va alla grande, vai Franco. No, 60 c'ha Roberto, 60, no, la posizione del 440 che più o meno lo teniamo tutti a 1 e qualcosa, beh, se no spinge troppo, mi capito? Ah, sì, quello lì sempre a 1, anche io lo usavo a 1 quando lo stavo usando, con l'altro qui. Poi, come sono levato via quella sera, cominciava a strappa, Gianni sai quanto volte lo correggo, abbascia, perché lui già c'ha una voce da orco molto grossa, capito, quindi a volte strappa, ma invece Roberto non l'ho mai sentito strappare, come me d'altronde, io con quelle radio lì sono regolate, non le tocco mai, no? E non ti deve stare a tirare e molla, capito, vai Roberto. Ma neanche io, lo stesso la potenza la tengo sempre al minimo, non è inutile tirargli il collo, tanto non è che cambi più di tanto, solo in FM ti spara tutta la potenza che lo devi ridurre, però in AM va più che bene, cosa me la futi se esci con 10 o se ne esci con 40, non è che ti cambi più di tanto la musica. Ma non ti diciamo proprio più nulla, sfrutti più la radio, basta, io lo stesso 440 ce l'ho a 10 watt, modulati 20-25, 430 ce l'ho a 15 watt, perché di meno non lo posso mettere, e picchi di 25-30 lo stesso va bene. Questo baracchino qua è a 10 watt, modulati 15, il Grax lo stesso è 10 watt, 48-8 watt, ce li ho tutti così, no? Già va bene, dai, Roberto, facci una chiacchieratina, è più che sufficiente. Allora, ma Capri dice c'ha l'MC80 o l'85, non ho capito bene. 80, l'85 ce l'ho io, se vuoi te lo faccio sentire l'85 con 440, da paura, da paura, vabbè, ma bomba, no, Capri c'ha l'80 e il 60, li ho fatti avere tutti e due io c'ho il 60 e l'85, uno sul 430 e uno sul 440, ma è da paura, sai quanto esce forte, mi aspetti che commuto la radio, te la faccio sentire, riprendi fra. No, dipende anche dalla tonalità vocale. Io, a me piace l'85, io ho la Dunisi che è più o meno simile come tipo di concezione di microfono, però è troppo complicato l'equalizzazione, verità 2 ore, alla fine l'ho lasciato perdere, perché mi vorrei ascoltare io per conto mio, un altro con una cosa in cuffia, non ho mai avuto tempo di farlo, per cui uso il 60, pigli, attacchi e va. Tu la c'hai un 14 o un 44 stai usando adesso? Sei 80. Vai Clark! Oh. Ecco qua, allora io ci sono col 440 MC85, senti? Aspetta, una bomba! Cosa sto dicendo? Anch'io sono rimasto un po' stupefatto, perché l'85 non è che si adegua molto, parametrico chiuso, compressore 85 è chiuso il parametrico, il mic level ce l'ho neanche a metà e il mic del 440 col processore inserito ce l'ho a meno di 1. E che non è altri di 60, però ti avrei detto pillati 60 e mi dà un altro 85 a me per averlo i gemellini, dai. E io 60 ce l'ho anche scappolo, ne ho un altro, ne ho 3 di 60, dai. Questo però lo alterno tra il 430 e il 440, perché ho visto che spinge, vabbè, che spinge bene, che va bene. Poi puoi sollevare anche la voce, non distorce, capito? Va bene, infatti anche Franco è rimasto un po' così, perché lui ce l'aveva, ma ne ho sentito altri, la modulazione no, non è molto... molto gradevole, capito? Rimane un po' cupa, mentre questo ci adegua bene, quindi ho detto vabbè, teniamo questo col 44, dai. No, è buona, buona, più che buona. A me mi è sempre piaciuto, c'era la maestrale, te lo ricordi? A lui gli si è deciso, se si è adatta va bene la volta. Sì, ma anche l'80, Gianni, se si usa l'80 funziona molto bene, va bene. Capito? Avanti, Franco, Franco. Questa è una lavorazione bella. Certo. Sì, questa esce abbastanza bene, esce. Lui va bene. Pazienza. Userò 60. Luca, eia, eia, Luca, Luca, Luca. Ehi, buonasera, buonasera, via, rientrato, da ieri, rientrato ora. Vai, non me, vai. Ciao lui, è bello, dov'è? E beh, ma hai che ti sei farata? Ma non so qui scendi? Oh, ho salutato Luca, ha detto, vabbè Luca, non ha risposto nessuno. Ah, dice beh, vabbè. No, ecco, stavo uscendo, sì. Ha detto sì, ma prima era muto, infatti anche Claudio ti ha detto a vedere se la vada a venga, perché abbiamo chiamato in due. Ah, sto uscendo, sì, adesso. Sì, tuo segnale, 9 più 25. C'è anche Franco da Sosta, va. Aspetta la palacchino. Di solito rientra a casa alle 9:30, così. Oggi un po' prima perché sono appiedato, la macchina c'è la contessa e niente, allora ho detto accompagnami prima a casa, ha detto la sto accendo un po' per vedere se c'è qualcuno e ci siete voi. Ciao Luca, buonasera. Ciao Franco, già mi ascolti? Sì. Sì, a voi. Sempre uguale, io ti chiedo sempre fuori a te. Poi di solito è quel re beato, non mi senti? Vabbè, se lo sentissi dovrei avere molto altro quel re, me. Però se no già ti chiedo fuori, anzi oggi è una bomba, va benissimo. Avanti Claudio. Ehi Luca, arriva molto bene con quel microfono. Va bene, c'è una modulazione bella squillante, già va bene. Ok. Yeah, eccoci, e domani inizia la settimana, vabbè, KK. Già lo so, stavo dicendo, scusate, ma Franco, io ho di segnale, mi dai un controllo di Santiago? Guarda, sì, diciamo una 8-9, dai, 8-9, sono 8-9. Tu che antenna stai utilizzando? La mantova turbo. Più o meno come la mia, vabbè, io ce la mantova 1, siamo lì come tipo, infatti anche tu c'hai un segnale quasi 9. Esatto, poi dipende da dove ci sei, perché magari sono più chiuso, siamo chiusi, là, non so degli altri, perché di solito c'è Claudio che mi arriva 9-5, per dire Luca mi arriva a 7, però arriva bene di radio e tutto altro. Come altri ce ne sono che arrivano 9-20. Chi c'è buono aperto? Gianni è doppio numero per quella zona. Sì, Gianni è buono perché mi arriva anche 9-10. E Giulio Lolla pure? Sì, Giulio anche aperto 20 a volte. Scappa. E vabbè, io per quella zona lì sono un po' sfavorevole, dai. Siamo coperti, dai. Luca, a te più forte che ti arriva di quella zona lì è Natalino, no? No, più forte che mi arriva qua è Coso, vabbè, è via Cappuccini. Ma anche Marco Lino Cosa arriva forte. Poi vabbè, Franco quello che abita lì, sono a basso, molto basso, anche Natalino arriva forte. Quello è più forte Coso, quello di Cappuccini, dai. Ho capito. No, qua arriva forte Natalino, considerando dove, io non so esattamente, ma so più o meno la zona, mi ha detto, vicino alla cosa, alla fontana, dai, ci capiamo lì. E arrivando forte Natalino, infatti ho detto cavolo. Chi Natalino? No, a me mi arriva molto forte, considerando che è in un buco lui. Vabbè, ma l'antenna c'era sul tetto, anche se bassa, i radiali toccano la mantovana, però già il centrale già irradia, capito? E qua arriva. Con 5 watt mi arriva quasi 9,20, 9,15. Quando aumenta tutta la potenza della radio, che c'è una bella radiolina, mi arriva 9,30, capito? Un bel segnale. Vabbè. Anch'io con potenza così 20 watt va bene, 9,5 è ottimo, perché io ti ripeto, c'ho il costone lì di Monte Bianchino che mi copre un pochino per la tua zona, per Sorso, però è un ottimo segnale. Se dovessi mettere a 50 watt di portante magari riesco ad arrivare anche 9,8, 9,10, però è un ottimo segnale perché il tuo qua è lo stesso, 9,7, 9,8 su 4,40 mi arrivi, quindi con picchi a 9,10 è un ottimo segnale, capito? Non c'è l'apertura che hanno loro lì che sono giù nella valle. Quando ero in via Pascoli io già ti ricordi quanto ti arrivavo, mi arrivavi 9,20 tu a me. Buon proseguo a tutti, ciao Gianni, Gianni, ciao Claudio, ciao Luca, ciao Franco e tutti gli altri amici in ascolto. Ciao ciao, cuore da parte mia. Ciao Roby, alle prossime, ci vediamo domani mattina, vai Luca. Ciao Roby, alla prossima, ciao ciao. Avanti Franco. Via, ciao Roberto, buon proseguo con tutto, vai. E buon inizio settimana per domani. Ciao ciao. Ciao Roberto, andrà a Luigi, allora, tiro muccolo, si intende più un gasino che tu. Raccoglie, raccoglie. Così, dato che mi invio a te, a te non ti sentivo per niente, ti sentivo solo attaccare la pasta. E tu pensa che io sono in sala, loro sono in cucina, quindi, vabbè, ma si sa, le voci bianche superano. Ah, la voi tiri se non funzionava c'è Baracchino. Ieta zia Santena Ieti, 9,20 radio super super 5. No, vabbè, questa è sempre l'amato, vai. Ma infatti da giudito con l'amato che sta arrivando, 9 più 20, radio super 5, e quando attacchi l'altro arrivi Santiago 5. Che vuoi dica, magari si è entrato un po' di acqua perché da quando l'abbiamo, diciamo, assemblata, l'ho lasciata buttata sul coltello, quindi ha preso anche un po' d'acqua, devo controllare anche una prelimenti che ho stesso buttata sopra e l'ho lasciata, l'ho fatto bravo. Dimmi bravo. Ma te quando mi arrivo anche in un buco? Ehi, non me lo dì nemmanco, già lo so, è davanti a te. Ti do una picchiata a tu e andai a picchiare. Se non mi vedi qua, immagina già di da te. Questo sono le volte del Lincoln, non mi aiuto in niente. Poi se attacco anche l'aiuto. Attacca anche l'aiuto che ti vuole. Sai però dov'è il problema, Fra? Che un amico diceva la Sardegna è divisa in quattro parti, no? Tre sono le mie e una è la tua. Il problema di quelle zone è apertissima per il mare, non c'è niente da fare. La migliore che c'è è la zona di Dovettino, capito? Per Porto Torres e per il mare. Però la difficoltà dall'altra parte. Il mio problema invece qual è? Che arrivo magari più basso degli altri, no? 5, 6, 7 segnali, 10 segnali più bassi. Però arrivo sempre, mentre invece dall'altra parte è un casino, io essendo qua prendo tutto, sì la zona del mare arrivo più basso, però prendo tutto. La difficoltà è quella perché io ho provato quando ero via Pascoli, io arrivavo ad Alghero, arrivavo a tutte le parti, però già superare la zona di Scala di Ciocca ti viene in salita, capito? Sì, quella sì. No, io la qua diciamo che non mi posso lamentare perché guarda, ci sono giorni che la ghiaccia lo prendo in diretta, ma sì, allo stesso, figurati, se mi danno fastidio. E ci sono giorni anche al vero, non vedo bene. Guarda qua, che mi ricordo, vabbè, lo mettevo qui, ma tu, se lo sai, se ricordi benissimo. Al vero 9,15, qua adesso non ho mai provato, Sì, è molto più, sei più su, lì si è aperto per Sorso, Seno, il Castelsardo, tutta la zona del mare. No, Franchi, io ci arrivo a Castelsardo, Santiago 5 ma ci arrivo, a Badesi, a Trinità, in quelle zone ci arrivo, 5, 6, 7 però ci arrivo, certo non arrivo quanto arrivi tu, no, è diverso, capito? Con Santa Teresa ci ho parlato, su, con su a Capotesta che c'era Coso, carabinieri dalla macchina, cioè non è un problema di arrivarci, arrivi più basso ma arrivi, la difficoltà è nelle altre zone perché abita nella zona bassa. Guarda che Tino dove abita è apertissimo, ti ripeto, per il mare, ma quando era la Terroce aveva una zona micidiale, capito, eppure era la Terroce, quindi la zona basta un dislivello, cosa ti posso dire, di poco e subito cambia l'antenna, e non vedo per 50 metri io. L'unica cosa che vedo è tutto Sassari, tutto Alghero, tutto su per lo scala di Ciocca, vedo il mare, quindi è chiaro che riesci ad arrivare, non però ai livelli di chi è proprio aperto verso, quando arrivi a Pascoli io era una cannonata per la zona del mare, anche attività a livello amatoriale, sentivo moltissimo in diretta la Liguria, invece qua la Liguria la sento se c'è propagazione, se non c'è propagazione non sento niente, fra, capito? Sì, io mi ricordo che a Iaccio tanti anni fa c'era uno che ci parlavamo tutta un'occhio, faceva chiamare Andrea, si chiamava, ma era in diretta, tutte le notti, io, lui e il povero braccio di ferro, era, guarda, tutte le notti ci parlavamo in diretta. Andrea era rimattore adesso. Andrea è radioamatore, capito? Il radioamatore parla lì dalla Corsica, parla in diretta, arriva a 525, arriva in diretta qua a casa, capito? In VHF. Tu figurati, nel canale 5 noi parlavamo in diretta, di notte. Sì. E adesso l'animatore. Sta entrando, non l'ho più sentito neanche in 2 metri. Non l'ho più sentito, però l'animatore è una persona grande adesso, più grande, molto più grande di me. Forse c'ha un po' più grande di te, forse. Non lo so. Ok. Avanti, ti. Non fa neanche la volare, dai, c'è la mano della foto. E poi intanto quel più urlo che è scritto. Giulia, no, che quando attaccano la televisione a tutto il volume, che non ho bizzini come televisione i bizzini, capito? E vabbè, però io già sono in questa stanzetta, solo che uso, tengo tutte le porte aperte, capito? Se non mi isolo troppo, però già questi microfoni che portano dentro il bailame, se no si usa il microfono normale già va bene. Avanti, Vra. Vabbè, vi saluto, già sono in corrisse, dai, già sono qua. Continuate. Ciao, ciao, un abbraccio, ci sentiamo. Quando voglio, lo sai, siamo qua. Avanti, Vra. Ciao, Tino, vai. Ci sentiamo. Prima era un'altra cosa, un'altra storia era anche la radio di Barattino, era un'altra storia, da adesso l'altro con il problema non va da nessuna parte. Il problema è quello che io, guarda, non mi posso lamentare, mi lamentavo quando i primi anni che sono arrivato qua che c'era la 15.000 che attraversava tutto praticamente due palazzi, attraversava da via Milano a via La Malfa. Poi hanno cambiato la linea e non QRM è pochissimo. Quando piove qualche scarichetta, perché c'ho la centrale dell'Enel a 500 metri, capito? Però QRM è molto basso, a me non mi supera mai 2, 3, a volte 4, ma non sale di più, capito, Fra? No, a me nel 10, nel 12 altri canali non mi supera più di quella cifra lì, dai 3, 4, massimo 5. Invece su 5, 9, 9, 10, per me sono queste antenne che c'ho qua a fianco. No, su 5 watt noi siamo spostati, noi siamo subito la graffetta qua è tutta sul 10, proprio perché abbiamo visto che il 10 è quello che ha meno QRM di tutti, ma poi più in alto vai e meno QRM c'ho. Se invece scendo a scendere dai sino al canale 1, dal 10 all'1 il QRM aumenta, non so perché, eppure non va giù nulla davanti, no, non c'ho niente, né antenne, né palazzi, nulla, è tutto completamente libero. Deve essere proprio la frequenza che tende ad avere più QRM, Fra. Ehi, so se è così, ma grazie a Andrea. Andrei allora che è stato un radioamatore, e a solo un anno non intendo. Guarda, gli anni passati modulava spesso con Walter, insomma col gruppo a 525, poi non l'ho più sentito, io ce l'ho sempre accesa, non l'ho più sentito, magari trasmettere a qualche altra parte, anche perché io l'attività non la sto facendo. Sì, sì, era di Matore, abita lì, e comunque una collinetta in alto lì in Corsica, in alto. No, c'è anche una bella casa, è una bella apparecchiatura, mi pare c'è il PS2000, una cosa del genere, però arriva in diretta, arriva a casa, non c'è problema, arriva benissimo in diretta senza ponte, capito? Però in 27 io non ho mai avuto il piacere di sentirlo, forse erano tempi diversi, o magari tu modulavi in frequenze diverse, in canali diversi, e beh, Pino Braccio di Ferro me lo ricordo perfettamente. Io ho comprato tutta la sua stazione quando è morto, tutto, Mignare, baracchino, microfono, cavi, tutto me l'aveva fatto avere Luca. Mignare l'avevo tenuto un po', poi l'avevo venduto, e l'Uranus l'avevo venduto lo stesso a Massimiliano. Massimiliano l'ha dato a Eugenio, ce l'ha. Il baracchino di Pino Braccio di Ferro ce l'ha Eugenio. Pino lo chiamavo io, sempre Pino lo chiamavo, già lo so, si chiamava Pietro, Pino lo chiamavo io, la sacca ha dato Pino, ha visto capo di Gosio, vabbè, capo di Bugnetta noi dimmo. E lui abita vicino a me. Pino? Sì. Oh, ogni tanto lo vedo in fotografia, so che era rientrato dalla Maddalena. Adesso penso che sia Sassari, indietro, dov'è che sta lavorando adesso alle poste? Ma non lo so dov'è, davvero ci vediamo sempre, però ciao e basta, non lo so, io sapevo che era prima a Maddalena, poi da lì l'avevo contratto e mi sembra una Colbia, quindi lì non lo so. Ma io penso sia a Sassari da qualche parte, se non è a Sassari è vicino comunque a Sassari. No, è un mare di tempo che non lo sento, non lo vedo più. Un mare di tempo. XPK. Un comico. Pino era un piscio. Già è bravo. Una bella ragazza. Sì, abita qua, vicino proprio a me, infatti non ha piazzato le antenne, niente, ci ha preso la casa qua, infatti sicuramente qua vicino ve lo vedo perché rientra ogni notte. Ah, è riuscito ad andarsene a casa di Robabbo? Ho comprato la casa qua, ci ha preso, l'attuale. Hai capito, adesso che a casa sua può mettere le antenne come Cristiano, non la posso più, si è ritirato, perché prima lo babbo non mi faceva buoni nuda. Sì, già le metteva lo stesso, ma anche non mi faceva buoni nuda, e chi ti dice di no, avrebbe bisogno a te. Io non mi ricorderò, una lotta per la sopravvivenza, mamma mia, quando avevamo le riunioni, era sempre di goglio, ma di grumbiglio. vabbè, io l'ho conosciuto a Pino, quando sono entrato alla Dematore nel 93, come vabbè con Vannino ci conoscevamo prima, 27 anche, poi quando sono diventato, lui è diventato un anno prima di me, 92, forse lui nel 91 aveva atteggiato, io nel 93, quindi insomma la greffa era quella di Sorsa, poi c'era, ma è Bergunzi morto, No, è stato mio, no. Sì, una vita che non lo vedo. Una vita, da quando ha chiuso il negozio lì al corso, cos'era? Via. Sì, la via centrale. Sì, però non lo sapevo l'aveva chiuso. Già era un negozio che stava cominciando a non fare più niente, non c'è andato più nessuno. Però non lo sapevo. Me l'hanno detto stasera, me l'hanno detto. Era chiuso, stavamo proprio parlando di certe cose. Ma detto, no, non è già chiuso. Non si fa di niente. Sì, sì, sì, ci vedevamo spesso, capito? E vabbè, altri tempi erano, purtroppo è così, una No, vabbè, ma poi quando l'attività non è più, guarda l'amico Otto, già hai capito chi, le attrezzature rimancano, il radio rimanca, non c'è più quella passione che c'era un tempo fra, quindi è chiaro che non ti metti lì più ad investire, a fare, ma mentre Giovannino era sempre un'altra la gabitura, Germano non rispondeva mai al telefono, poi mi chiamava lui, era sul tetto, stavo facendo, mettendo a posto il motore, stavo mettendo a posto l'elettiva, stavo facendo quello, sempre piazzando antenne, bughelli, piazzando bughelli, poi alla fine non c'è più la passione, capito? Sono rimasti quelle poche persone appassionate che vanno avanti per i fatti loro tranquillamente, ma mi siamo un bel animatore, siamo tantissimi a Sasse, però nessuno fa più attività. Diciamo che uno deve fare l'animatore, non deve fare anche se viene un all'altro, ma chi si ritira anche per quello lì, la gente. Lo so, però lasciamo perdere, mi sono arrivato a me, comunque io sto bene così, fra la verità, non ripiango niente, la passione ce l'ho e continuo ad andare avanti per la mia strada. Non sto facendo radio, parlare in 27 è sempre fare radio, quindi o la fai in una maniera o la fai nell'altra, sempre radio fai, io ci mi ero e ci mi rimango, me la fotte sei a me. Quello che fai cavolare a me è una cosa solo, quello che a me non me ne frega niente, perché a volte lascio perdere perché non me ne frega niente. E hanno la patente, ci credono di essere di tutte le frequenze, anche nella 27 se possibile. Non funziona un sito. Ah, in modo più assoluto. I consigli a me me li hanno sempre dati, io li ho girati agli altri, pure ognuno chiaramente li vuole fare quello che le piace, ci mancherebbe altro. Io qua sono, qua rimango, non vado a rompere le palle a nessuno nelle mande materiali. Ognuno può fare il suo TV, poi chiaramente se devo dare un consiglio a chi mi interessa di darglielo, glielo do, perché mi interessa darglielo, poi se lo accetta lo accetta, se non lo accetta se poi mi sciolgo, se me la fa me. Io te l'ho detto, io nel 93 me l'ho presa perché ne avevo le scatole piene di avere le scorradio sotto casa e quindi me la sono presa per non rompermi più le scatole, ma con nessuna intenzione di fare radioamatore a grandi livelli, non l'ho mai fatto. Non mi interessa farlo, capito? Le antenne le ho messe perché avevo voglia di crescere, ma non ce l'ho fatta a crescere, quindi è una cosa che non mi è mai andata. E sono in Chivi, pazienza, già rimane in Chivi. Ma l'ha fatto tutto. Bravo, infatti, ti rampo tutto. Non sai cos'è Claudio? C'è lui il motore che non riuscivo più a tenerlo in piano. Se mettiamo scendo fuori, allora per mandarlo in piano cosa hai fatto? Non so, un po', hai preso le antenne e te le hai messo sul tetto. E quindi c'è quel motore che non inciampi. E me le mani in tasca, dice, in busciacca, dice 2000 euro tiro, lascia perdere, infatti vanno veloce, cambia il tempo, che insomma arrivi, oddio, sta per iniziando l'inverno, ma questa primavera vedrai tu la pulizia che faccio su, non si lascia fare fra. Io tutti i santi giorni accendo il controbox, faccio fare un giro all'antenna, da nord a sud, da sud a nord, e chiudo il controbox, tutti lì, questo è il mio lavoro tutti i giorni, tutti i santi giorni. Capito? Perché altrimenti si blocca tutto. E così con l'altra piccolina la stessa cosa. Però attività, zero, radio, tutte spente, ma le guardi, come mi ha fatto un rambo e quindi tutti i clienti. Ciao Marco Condor, adesso ti sei svegliato. Altro che svegliato, ero stasera un po' aiutando in piccolo mia zia sul terrazzo. Stavo facendo un lavoro, ho cambiato il bastone, collegando tutti i tubi, eccetera. Così gli ho aiutato un po', passando i ferri, capito? Fino a poco fa stavo lavorando con la luce elettrica lì, terrazzo. Bene, forse domani sarà la stessa cosa. Vedremo, perciò non sono entrato, Non preoccupate, è un natalino, gli tubi. Marco deve essere in giro a fare spese, però la giornata tua non è delle migliori per lui, non le piace uscire col tempo così, invece è impegnato. Va bene, beh, anche questo è una cosa buona, capito? Se ti passa la giornata così, va bene. Avanti, fra. Capo, ciao, Roberto, buonasera. Senti, tempo fa ero a testa di lì a Cittamercato, non si può passare, però, non si può passare. E la niente, non Giulia, casina tutto con il mio nome. Non lo sai, quando le domeniche sono così grigie, niente, si intana in chivi. A Fagosa, da voi non ci ho preso, comunque. Lì si intana fra. E così è. E vabbè, vabbè. Adesso ci andiamo a mangiare, che adesso sono? La 9:15. Aiù, già pronto, dai. Vi saluto, ciao fra, grazie alle due chiacchiere, due prove ce le abbiamo fatte, e stasera Marco che stavo usando il Superstar, con un MP5, bellissima modulazione, funziona molto bene con la radio. Vabbè, dai, ti lascio con Franco, se vuoi continuare io vado a cenare. Un abbraccio a tutti, anche a quelli che sono in cuore X sul 10, buon fine domenica a tutti, e ci sentiamo domani se Dio vuole. Vai Marco. Sì, ciao Claudio, buon quartì. Io idem con patate, dai. Sto pranzando adesso perché prima ero fuori, dai. Sentiamo domani forse, se non ci mettiamo tutta la sera lo stesso a fare qualcosina, dai. Domani dovremo solo tagliare in due un vascone e portarlo via. Ok, ciao Franco, ciao a tutti, non sono a meno che c'è, ho proprio acceso e parlato, dai. Ci sentiamo domani. Vai Franco. Sì, ciao, ciao. Buon pranzo allora, Marco, ci sentiamo. Ciao Claudio, buonasera, buon tutto, ci sentiamo per il prossimo, dai. A domani, ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti e due, ciao, buona domenica, buon fine domenica a tutti, ciao, ciao.